stanza. Tante cose intorno, la finestra chiusa e la porta aperta, la televisione resta sempre spenta. È un termosifone, quattro spine accese. Sempre poca luce, scende ormai la sera, dietro l'ossatura sempre stando in linea. Fuochi ben accesi, quanti anni spesi, a difenderci.